24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci qui cari ascoltatori, sono le 7:22 minuti, buongiorno e ben ritrovati per una settimana di 24 mattino in diretta fino alle 9, la iniziamo con Paolo Corleone in regia, ci seguirà tutta la settimana, chissà. Ebbene sì, e allora di cosa parliamo oggi nel nostro sondaggio? Alle 8:30 potete già votare su radio24.it, parliamo di droga perché è una commissione che ha presentato uno studio all'ONU, una commissione mondiale, ha detto, riaprendo un'annosa vecchia questione, bisogna pensare a liberalizzare le droghe, soprattutto quelle cosiddette da qualcuno leggere, e anche depenalizzare il consumo di droghe. 24 mattino, l'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan, oggi per l'intervista voglio salutare il signor Stefano Guarnieri che è con noi, buongiorno signor Stefano. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Dobbiamo spiegare in breve la sua storia, padre di Lorenzo che un anno fa di fatto fu ucciso da un uomo che guidava ubriaco e drogato. Senta, ci sono vari modi per reagire a una tragedia del genere, lei e sua moglie avete fatto un'associazione? Sì, noi sin dal primo momento il dolore è chiaramente enorme per la perdita di un figlio, ma ci siamo accorti che non si faceva niente per la sicurezza stradale, si faceva veramente molto poco nel nostro paese, nel nostro comune, e quindi abbiamo cercato con l'associazione che abbiamo creato di cercare di far sì che quello che è successo a Lorenzo non succeda più, quindi questo era lo scopo sostanzialmente. Voi avete fatto anche un sito internet che voglio dire occhioallastrada.it, nel quale c'è una proposta di legge concreta, si può firmare, ho visto che per ora siete circa 6.800 adesioni, dovete arrivare quanto? A 50.000? A 50.000 adesioni circa, sì. Per fare una proposta di legge popolare per inserire nel codice penale che cosa? Sì, noi vogliamo far sì che le persone che uccidano per la strada siano punite in maniera equa, quindi l'introduzione di un nuovo reato che si chiama omicidio stradale. Sostanzialmente in Italia cosa succede? Se qualcuno viene ucciso per la strada, la persona che uccide rimane impunita, non si fa neanche un giorno di carcere e non viene mai arrestata e può tornare a guidare. Questa è una cosa incredibile, l'omicida di mio figlio dopo un anno adesso ha ripreso la patente, quindi è fuori e può tranquillamente uccidere un'altra persona. Quindi quello che noi proponiamo è una legge che inasprisca le pene, facendo in modo che le persone si facciano almeno un giorno di carcere, vengano arrestate quando succede l'evento e vogliamo introdurre quello che si chiama l'ergastolo della patente. Sostanzialmente quando lei uccide una persona, ovviamente guidando sotto l'effetto di alcol e di droga, la patente non la deve vedere più. Quindi una impossibilità di riavere la patente, questo a vita. Esattamente. Sì, perché in Italia c'è il cosiddetto omicidio colposo, quello di cui si deve rispondere, sì, nel caso. Esattamente, sono considerati degli omicidi di serie B, perché vengono considerati omicidi colposi e quindi non sono neanche contati dalle questure come omicidi, c'è solo il giudice, non c'è un collegio giudicante, le pene sono talmente basse, la pena minima è tre anni, che se una persona patteggia poi con due anni se la cava tranquillamente e può tornare a casa. Io ho ricevuto in questi giorni credo una quindicina di storie di persone che è praticamente molto simile alla mia, nei quali l'omicidio, la persona che ha ucciso magari vive nello stesso paese, continua a guidare e continua a fare una vita tranquilla, mentre ovviamente lei pensa a cosa succede a una famiglia quando perde un figlio di 17-18 anni in questa maniera. Certo. Senta, risposte dalla politica, mi pare che qualcuno abbia reagito. Sì, io credo che ci siano, senza dubbio, insomma il sindaco Renzi ci sta appoggiando in maniera molto forte, ma anche il presidente della Commissione dei Trasporti della Camera, l'onorevole Mario Valducci, ha sempre avuto insomma un occhio molto attento su questa cosa, quindi noi pensiamo che qualcosa si possa fare. Ovviamente il percorso, come sempre in Italia, è complesso e arduo per cambiare le leggi, però sto vedendo che c'è veramente una grande voglia di poterlo fare. Allora, quello che possiamo fare noi è, io lo ripeto, poi lo diremo anche nel nostro contatto, nella nostra pagina Facebook 24 mattino, vogliamo ripeterlo il sito, perché poi lì si può firmare, cosa che io farò subito dopo la trasmissione, www.occhioallastrada.it. Questo è il sito internet, che ripeto, lo diremo, lo ripeteremo, cercheremo di fare il possibile. Mi sembra un'iniziativa meritoria. Intanto la ringrazio, signor Guarnieri. Grazie, grazie a lei e grazie all'opportunità. Stefano Guarnieri, grazie per essere stato con noi in questa intervista. Certo, un pochino particolare, un pochino diversa, ma un'iniziativa che vogliamo appoggiare. Ripeto, www.occhioallastrada.it, troverete i contatti anche della nostra pagina Facebook e lì c'è la possibilità di firmare questa proposta di legge popolare. Ci servono 50.000 firme per inserire il nuovo reato di omicidio della strada per chi uccide sotto l'effetto di alcol, sotto l'effetto di droga, anche l'impossibilità di ottenere la patente. Noi ci fermiamo per la pubblicità e meteo, poi parliamo nel nostro sondaggio, rimaniamo sul tema in qualche modo, perché parliamo di droga, ma lo facciamo in un modo totalmente diverso, perché ci ha molto colpito quello che è una commissione mondiale della quale fanno parte anche l'ex segretario generale dell'ONU Kofi Annan, ex capi di Stato, anche poi scrittori, artisti, cantanti, uno tra i più celebri c'è anche Sting. Ha chiesto al governo inglese, presentando questo rapporto sulle droghe all'ONU, di tornare a un tema vecchio, annoso, quello della liberalizzazione. Perché? Perché fanno notare in questo rapporto anni di repressione, di traffico della droga non sono serviti secondo loro, allora ci vorrebbe una depenalizzazione dell'uso di alcune droghe e una liberalizzazione nel mercato degli stupefacenti. Che ne pensate? Siete d'accordo? 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta tra poco. 24 mattino. Alle 8.33 minuti, allora parliamo di questa decisione, questa commissione, una commissione mondiale formata per esempio dall'ex segretario dell'ONU, Kofi Annan, da scrittori come Mario Vargas Llosa, ma anche con Javier Solana, già commissario europeo, che hanno detto e hanno inviato anche al capo del governo britannico Cameron una lettera dicendo: sulle droghe la battaglia contro la droga mondiale è fallita, bisogna tornare a pensare di liberalizzare il mercato delle droghe. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Insomma, la commissione, che non è una commissione dell'ONU, anche se all'ONU ha presentato, nella sede dell'ONU ha presentato questo studio, una commissione e nella quale c'era anche l'ex segretario generale dell'ONU, ha detto: la lotta agli stupefacenti è perduta, bisogna pensare a liberalizzare alcune droghe, bisogna pensare a depenalizzare il consumo di alcune droghe, l'annosa questione, esistono droghe considerate leggere rispetto ad altre pesanti. Insomma, di questo vogliamo parlare. Che ne pensate? Lo facciamo con Marco Cappato dei Radicali, che saluto, buongiorno e ben ritrovato Cappato. Buongiorno a voi, grazie. Saluto anche l'onorevole Luca Volontè dell'UDC alla Camera, buongiorno onorevole Volontè. Buongiorno a lei, buongiorno anche a Marco Cappato. E così Salute. Anche voglio salutare un uomo che si occupa di questo tema da anni, non solo, dal 1976 ha fondato Villa Maraini, Massimo Barra, buongiorno, buongiorno e ben trovato. Senta Cappato, cosa devo dire? Musica per le vostre orecchie, per le sue orecchie, questa di una richiesta annosa, insomma, di tornare a dire liberalizziamo il mercato delle droghe? Sì, a noi piace dire legalizzazione, perché la liberalizzazione è quella già in atto da parte della mafia e della criminalità internazionale. Io ero nel 97, nel 98 a New York, quando Kofi Annan, che oggi firma questo appello, riuniva tutti i paesi nel mondo dicendo, con il nostro Pino Arlacchi, eletto dall'Italia dei Valori e ora parlamentare europeo del Partito Democratico, liberiamo il mondo dalle droghe in 10 anni, guerra contro le droghe. C'era pure uno spot con una signora che con uno spray puliva il mondo dalle droghe. Dopo 10 anni abbiamo più mafia, più terrorismo internazionale finanziato con i soldi del proibizionismo, con i soldi derivati da queste leggi, cioè sono tutti i criminali internazionali, la destabilizzazione di paesi come il Messico, l'Afghanistan e la Colombia sono esattamente il prodotto della follia sulla base della quale droghe che uccidono, pericolosissime, come il whisky, come cioè l'alcol abusato, sì, vanno direttamente nel profitto delle mafie, e altre droghe invece portano, intasano la gente nelle carceri italiane nelle condizioni bestiali che lo sciopero della fame di Pannella sta denunciando. La questione della commissione che ha presentato questo rapporto è, in base a questi dati, il consumo mondiale è salito negli anni, no, del 34, del 35%. Questo vuol dire che la repressione, le politiche antiproibizioniste, le politiche di repressione non hanno funzionato. C'è da dire che però, non so, per esempio la Casa Bianca, gli Stati Uniti hanno contestato questa impostazione dicendo che il numero dei tossicodipendenti si è addirittura dimezzato dagli anni 70, quindi magari si è concentrato più in alcune persone, ma il numero è diminuito. E quindi, come si sa, quando si parla di questo, di un approccio a un tema così delicato, le versioni sono ben diverse. Onorevole Volontè, a lei come appare invece questo appello mondiale, che non credo, non so se faccia poi molta strada, però certo l'autorevolezza della commissione è poco discutibile. Se un altro Kofi Annan, magari lasciamo stare gli artisti, c'era Sting, c'erano dei, però alcuni ex capi di Stato, ex commissari europei, insomma l'autorevolezza c'è. Lei, Volontè, che ne pensa? C'è, però ricordiamoci di mettere in evidenza alcune cose. Kofi Annan è stato praticamente cacciato via dall'ONU per lo scandalo ancora irrisolto delle affari del figlio con le Nazioni Unite. Uno dei componenti, l'ex presidente colombiano Gaviria, aveva concordato una serie di accordi con i cartelli della droga in Colombia, quindi voglio dire, personaggi certamente autorevoli, ma che hanno un passato non sempre cristallino. Io prendo spunto da quello che ha detto Marco Cappato per dire, ci sono aree in cui il consumo della droga è aumentato, aree, come dimostrano gli Stati Uniti, in cui è diminuito dal 46, addirittura in alcuni casi al 68%, l'uso di cocaina e l'uso di cannabis. E la linea che viene denunciata da questo rapporto è di una difficoltà a combattere il fenomeno. Però la conclusione è esattamente l'opposta alla mia, da quella di Cappato. Non, l'idea non è liberalizzare le droghe, ma insistere ancora di più, lavorare ancora di più per eliminare dal mercato di alcune mafie proprio il consumo delle droghe. Ma loro, appunto, questa commissione dice evidentemente 50 anni di questa politica non ha portato a risultati. Beh, guarda, lei ha citato la proposta, la protesta americana, mi sembra che negli Stati Uniti sia esattamente il contrario, voglio dire, gli Stati Uniti non è che sono un paese fuori dal mondo, sono un paese che hanno il confine con il Messico, il primo importatore, tra virgolette, o il primo paese che subisce l'esportazione dalla Colombia, quindi voglio dire, mercati assolutamente di primo piano rispetto al commercio e alla coltivazione di oppiaci e di droghe. Tutti sappiamo qual è un altro problema, un'altra fonte straordinaria di produzione di oppiaci e di droghe, che è l'Afghanistan. Sì, ovviamente sì. Su quel punto dobbiamo riflettere su come eliminare questa coltivazione che invade nei tre quarti della loro produzione proprio l'Europa. Insomma, diciamo che la soluzione, dice, è piuttosto fare delle politiche più efficaci, repressive per stroncare questo mercato, piuttosto che arrivare a dire queste politiche non sono fallite e quindi bisogna liberalizzare. Io vorrei capire da Massimo Barra, visto che insomma due esponenti politici ci dicono la posizione molto contrastata tra di loro, però questo dibattito alla luce agli occhi di una persona che si occupa in primo piano di problemi legati alle tossicodipendenze, è un dibattito annoso, vecchio, superato, vetusto, Barra, oppure un dibattito ancora molto sensato? Sì, è un po' vetusto, abbiamo tutto il senso del déjà vu e del déjà vécu, sappiamo già chi dice che e chi dice il contrario. Io credo che dobbiamo essere oggettivi il più possibile, ci interessa poco se il figlio di Kofi Annan non era uno stinco di santo, qui dobbiamo discutere del merito della proposta. Credo che chiunque abbia un minimo di logica e conosca il mondo deve riconoscere che la war on drugs, la guerra alle droghe, stile nordamericano o sovietico, è fallita, clamorosamente fallita. Questo non si può non vedere che cosa sta succedendo nel mondo, in tutto il mondo, anche in Italia. Tutti i morti ammazzati che ci sono morti ammazzati come effetto collaterale della war on drugs. Questo è un dato oggettivo. E quindi? La war on drugs si è trasformata poi, come effetto collaterale, in una guerra ai drogati. Quindi invece di propagandare, sostenere le attività terapeutiche, le attività umanitarie, curare le persone, dargli potere, il potere di sopravvivere nonostante l'handicap della dipendenza, noi combattiamo addirittura chi fa queste attività. Parlare contro la riduzione del danno vuol dire proporre l'aumento del danno. Ed è pazzesco pensare. Non esiste in un'altra situazione nessuno che possa proporre di aumentare il danno dei malati. Questo è pazzesco. Invece queste attività che noi abbiamo portato avanti insieme a tanti altri e che oramai sono maggioritarie nel mondo, perché tutte le agenzie delle Nazioni Unite sono d'accordo nel sottolineare l'importanza della riduzione del danno, hanno avuto un successo clamoroso. E non ci si infetta più con i numeri precedenti di AIDS. Ancora più importante, non ci si infetta più con i numeri precedenti di epatite C, che è un nemico subdolo, peggio dell'AIDS, perché colpisce poi a distanza di decenni. Tanta gente oggi muore di cirrosi epatica per un virus C contratto 20 o 30 anni fa. Sì. Quindi noi dobbiamo fare una strategia di salute pubblica che abbia al cuore, al centro, il benessere di coloro che purtroppo sono caduti nella trappola della droga. Tra l'altro, sottolineando che la droga fa male, che noi dobbiamo combattere la droga, ma dobbiamo combattere gli effetti dannosi delle sostanze. Tra l'altro 800 24 00 24, io non l'ho detto, ma votando il sondaggio su radio24.it, per il momento il 65% dei nostri ascoltatori dice sì, si può pensare a una liberalizzazione, e quindi risponde sì, diciamo appoggia questa relazione della commissione Annan, chiamiamola così per capirci meglio. Cappato, senta, secondo lei è importante ancora definire questa divisione tra droghe leggere e droghe pesanti? Esiste ancora questa divisione? Ovviamente ciascuna droga ha un effetto diverso. L'abuso di alcol può crea dipendenza, assuefazione, e può anche creare morte. Per esempio droghe come la cannabis non hanno questa gravità. Quindi il problema è che la proibizione viene oggi realizzata sulla base di altri criteri. Quello che mi interessa però ricordare, intanto, come a fronte di un'opinione pubblica comunque divisa, ecco, io non so se maggioritaria come questo sondaggio, sì, ma divisa, purtroppo, a parte noi radicali, i partiti italiani fuggono da questo argomento, che non riguarda soltanto chi assume le sostanze, ma riguarda tutta la società. Io credo che soltanto un potere, diciamo, di tipo totalitario fascista può pensare di proibire comportamenti che ormai riguardano nell'ordine dei milioni di persone, perché si parla di 1-2 milioni di consumatori occasionali o abituali di cannabis e di altre droghe. A questo punto cosa significa? Che sono leggi ideologiche che, se fossero rispettate, ci costringerebbe in uno stato di terrore, di polizia, e di avere un collasso della giustizia peggio di quello che è oggi. Cioè, visto allora che è un comportamento diffuso, tanto vale legalizzarlo? No, non è tanto questo, perché se fosse diffuso l'omicidio, ovviamente noi non legalizzeremmo l'omicidio. Qui è un comportamento socialmente diffuso in questi numeri, ed è un comportamento che riguarda per ciascuno la propria responsabilità individuale, come il consumo di alcol o l'abuso di alcol ci dice, e anche aiutare le persone, come dice giustamente Barra, ma lo puoi fare se quella sostanza è in qualche modo legale. Ma se la persona che vuole essere aiutata, nel momento in cui si presenta, è trattato come dallo Stato, si presenta alle istituzioni, è trattato come un criminale, è chiaro che quella persona non si presenterà mai, e la troveremo agli angoli delle stazioni e delle strade a morire di overdose e di AIDS, come oggi accade in tutte le strade italiane. Questa è un'immagine del drogato un po' vecchia, questa, Cappato. Io sono o blanco o nero, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora 800 24 00 24, vorrei sentire Giovanni da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno, vorrei intervenire a proposito della liberalizzazione. Io credo, come ha detto, io dico la stessa cosa che ha detto il signor Marco Cappato, ma la rovescia: se la lotta all'evasione fiscale è fallita, non si liberalizza l'evasione, se la lotta al furto è fallita non si liberalizza il furto. Quello che è vero è che la lotta è fallita, ma allora cambiamo il sistema di lotta. Come dice l'onorevole Volontè, cioè aumentiamo, vediamo di capire come stroncare queste narcomafie, non la soluzione non è liberalizzare. Dice... Esatto, e prima ancora educazione ai bambini, o legalizzare. Se i bambini veramente, i ragazzi capissero quali sono gli effetti delle droghe, non si drogherebbero, la cosa è semplice. Su questo Barra vuole rispondere rapidamente a Giovanni. È sì, così, cioè, non attiene alla sfera del logico e dell'irrazionale, è totalmente indifferente a non fare questo perché fa male. C'è Barra, perché, poi posso dirlo, lo so, mi dica Barra se è sbagliata questa impostazione. C'è un giorno io parlai con una persona che ha provato vari tipi di droghe, dice la verità è che non lo si dice, lo so che è triste dirlo, ma drogarsi nel momento in cui uno inizia, in quel momento appare come una cosa bella, cioè una cosa. Non c'è dubbio, la droga dà piacere, gli uomini, come tutti gli animali, seguono il principio del piacere. Di fronte al piacere, l'uomo è nudo, non ragiona col cervello, ragiona con altri livelli del suo sistema nervoso. Quindi, mandare un messaggio con i manifesti del governo, non ti drogare perché fa male, è totalmente inutile. Ma Questo è stato dimostrato da tutti gli studi scientifici al mondo. Totalmente forse no, però Barra, cioè la prevenzione, cioè spiegare cosa servono, cioè cosa comporta l'uso delle droghe, questo forse servirà dei ragazzi. Molto poco. Servono i comportamenti. L'uomo fa tante cose che fanno male, fa le guerre, fa tante cose illogiche, quindi pensare di superare un comportamento irrazionale facendo richiamo alla logica è una contraddizione in termini. Questa è la risposta a Giovanni. Sentiamo Paolo da Torino, poi andiamo dall'onorevole Volontè. Paolo. Ah, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Ma guardi, io sono un ragazzo di 33 anni, lavoro, un figlio, una famiglia. Fin da ragazzino forse sono entrato nella cerchia. Vorrei fare polemica un po' dei drogati, come si vuole dire. Faccio uso tuttora, non quotidianamente, ma ogni tanto di cannabis. La mia vita non ha nessun cambiamento, né sociale, né niente. Questo lei lo sa per certo? Bah, penso di sì, nel senso. Beh, ovvio, non cose, anche nel lavoro, quando mi va bene o quando mi va male, sicuramente la colpa la attribuisco a me, principalmente. Sarei sicuramente favorevole all'idea di una legalizzazione delle droghe leggere, vorrei dividere quello che è l'hashish, la marijuana, piuttosto che la cocaina o l'eroina. Insomma, lei molto chiaramente ci dice fa ogni tanto uso di droghe che definisce leggere, non le cambia la vita. Cioè, aspetti, però mi faccia dare onorevole Volontè, vuole rispondere a questo ascoltatore, a Paolo, le sembra una posizione di che tipo? Ma di che tipo? Guardi, ognuno è libero di fare quel che vuole, ovviamente. Il signor Paolo pensa che non ci siano cambiamenti nella sua vita. Sono felice che la pensi così, la pensino così anche le persone che conosce, le persone con cui lavora. Ovviamente un caso diverso è coloro che hanno fatto lo stesso uso estemporaneo di cannabis qualche anno fa, e tutti sappiamo cos'è accaduto, pullman caduti dai precipizi. Cioè, voglio dire, non penso che Paolo si metta al volante. No, chiaro, infatti l'ho detto io per primo. Voglio dire, anche quest'idea che facendo un uso estemporaneo non succede mai niente è un'idea abbastanza originale, cioè che passa un po' dall'esperienza di ciascuno. Tuttavia, se mi consente di dire, io continuo a essere assolutamente ancora più confermato dalle parole sia del dottor Barra che dal dottor Cappato della mia idea. Da un lato, come anche lei ha sottolineato dopo le parole del collega Cappato, se esiste un atteggiamento diffuso nella società, non per questo atteggiamento deve essere buono. Pensiamo alle rapine in banca, piuttosto a tantissimi altri esempi che ci possono venire in meno. Dall'altro, l'educazione, mi dispiace dirlo al dottor Barra, nella sua esperienza può essere quello che ha raccontato lui, nell'esperienza di tantissime comunità di recupero di tossicodipendenza, parliamo per esempio della comunità di Muccioli, ha degli effetti esattamente contrari a quello che dice il dottor Barra. Non è detto che siccome l'uomo va verso il piacere debba sempre esagerare in questo piacere. Se uno di noi, ragionevolmente parlandone, è appassionato di fragole, non è che deve per forza farsi venire l'indigestione da fragole ogni volta che vede una fragola, voglio dire. Cioè, voglio dire, qua cerchiamo di ragionare appunto come ci ha ricordato lei a partire dai fatti. I fatti sono che in alcuni paesi questa lotta alla al commercio e alle droghe ha funzionato, l'esempio degli Stati Uniti mi sembra sotto gli occhi di tutti, quello che sta pensando di fare la beneamata patria della liberalizzazione, cioè l'Olanda, è altrettanto evidente, e chi come noi in alcuni casi la pensa esattamente come la pensavano forse gli Stati Uniti negli anni 70. Sì, ma voglio dire, se negli Stati Uniti c'è una repressione alle droghe, le narcomafie trovano altri mercati, poi volontè, questo è il problema, nel senso che cioè si ramificano e trovano altri sbocchi. Ma su questo, Cappato, voi, vabbè, lei tra l'altro adesso è diventata anche consigliere comunale a Milano, no? Ma non c'entra niente questo. No, c'entra. Portate avanti che cosa? Cioè, intanto gli Stati Uniti sono un esempio di una società dove ci sono 2 milioni di detenuti ed è il paese emblematico del fallimento di questa guerra, perché è una guerra che è stata imposta in tutto il mondo. Io voglio ricordare che il Messico, che è una democrazia consolidata, ormai ha avuto 24.000 morti, ripeto, 24.000 morti per l'arcotraffico, 4-5 anni, per quella che è diventata ormai la guerra civile provocata dal proibizionismo sulle droghe. Tutti i gruppi terroristi internazionali, da Al-Qaeda alle FARC colombiane, si finanziano grazie alle nostre leggi proibizioniste, cioè grazie al profitto che regaliamo loro. Cioè, allora, togliendo questo proibizionismo si stroncherebbe questo mercato di narcomafia. Beh, evidentemente non avrebbero più loro, la 'ndrangheta, la mafia, la camorra, in mano un commercio del genere, ma sarebbe come, e qui veniamo alle città, una città come Zurigo, che per 3 volte in questi 12 anni, con un referendum, quindi 3 referendum, è stata confermata una politica molto semplice, non libertaria, no, molto semplice. Le persone tossicodipendenti da eroina possono, cittadini di quella città, ovviamente per non attrarli da tutto il mondo, possono rendersi in un ambulatorio medico dove, senza farli morire di overdose, gli viene somministrata eroina prodotta legalmente senza dare soldi alla mafia. E quelle persone vengono recuperate alla famiglia, al lavoro, alla società. E anche questo, ci dobbiamo fermare, anche questo è un tema dibattuto, quello delle cosiddette stanze del buco. Ma grazie a tutti, Marco Cappato, che è anche consigliere comunale appunto a Milano, Luca Volontè, onorevole dell'UDC, e Massimo Barra, fondatore di Villa Maraini, per essere stati con noi. Grazie. Con Alessandro Longoni tornato, Elisabetta Fusconi in redazione e Paolo Corleone in regia, diamo la linea a Oscar Giannino. Andate su 24 Mattino su Facebook, ci troviamo domattina alle 7:20.